Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci pronti dal Groove Master Studio. Buonasera a tutti da Gegè Telesforo, buonasera a tutti voi in contatto con Radio 24. Questo è il Soundcheck e buonasera anche alla nostra Silvia Barba. Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao. Siamo pronti, mia cara Silvia, a dare il via a una puntata questa sera piena di novità. Ho fatto una ricerca negli ultimi giorni, molti contatti da parte proprio degli artisti che, come sai, ormai si promuovono da soli. Questo è il nuovo metodo per poter promuovere la propria arte, la propria musica, e quindi oggi sfogheremo tutta la nostra passione per le novità del soundcheck. Cose nuove e nuovissime, difficilissime anche da riconoscere. Guarda, secondo me i nostri ascoltatori devono stare molto attenti e segnarsi bene tutti gli appunti per poi andare a cercare. Sì, tu sei old school, carta e penna. Sì, io sì, ancora sì. Carta e penna, ascolti i programmi in radio, in particolare il nostro, mi sembra giusto, anche perché certo, lo realizzi anche te con carta e penna alla mano. Naturalmente c'è anche la app importantissima che è Shazam, che ti permette di poter riconoscere al volo qualsiasi tipo di pubblicazione, sempre che sia nel loro archivio. Esatto, no? Perché funziona così. La uso. Non credo però che nell'archivio di Shazam, come dicevi tu, troveranno tutto quello che proponiamo questa sera. Però direi di partire con un campione. E guarda, io questo disco lo sto ascoltando ormai da qualche giorno e ho deciso questa sera di metterlo in bella mostra proprio in apertura dell'appuntamento di oggi, perché protagonista è uno dei miei preferiti. Stiamo parlando di gospel contemporaneo, e questo campione di gospel è un signore che ha anche una storia che è quasi un film, e si intitola Kirk Franklin. Beh, è un grande della musica che ha fatto tantissimo, che ha una storia appunto molto particolare, perché poverino è stato abbandonato dalla sua mamma all'età di 3 anni, cresciuto con la zia in questo ambiente di cristiani evangelici, con zia Gertrude, che lo ha appunto iniziato a questa musica particolare. Poi lui se ne allontana per un po', fino a che la sua adolescenza, come abbiamo detto, insomma un po' difficile, lo vede protagonista di esperienze personali molto forti. Un suo amico muore ucciso all'età di 15 anni, lui torna in chiesa e da quel momento in poi, con la sua musica e con il suo pianoforte, fa delle cose meravigliose. Sì, neanche vogliamo ricordare che Kirk Franklin ha vinto per il gospel diversi Grammy Award e torna con un album formidabile, fortissimo. Una band fortissima, una ritmica proprio all'altezza del momento, e diverse special guest che presenteremo fra pochissimo. Sì, perché vogliamo aprire proprio con due brani, quelli che secondo me sono il manifesto di questa pubblicazione, che si intitola Losing My Religion. Chissà se ha perso il senso della religione, credo di no, però è senz'altro una provocazione in questo momento. Losing My Religion, Kirk Franklin apre il soundcheck con Road Trip. Che ritmica, che arrangiamenti, Kirk Franklin, nuovo album per lui, stiamo parlando proprio del top di gamma del gospel contemporaneo, si intitola Losing My Religion. Ecco qui, parlavamo di guest importanti, chi c'è nel prossimo brano? C'è la grandissima Lala Hathaway. Lala Hathaway con Kim Burrell, anche lei una campionessa di vocalità gospel, insieme per Kirk Franklin in questa composizione originale intitolata When, qui al Soundcheck di Radio 24, da non perdere. Soundcheck, il suono della musica. E anche questi due signori sono da tenere d'occhio, si chiamano Blended Babies, arrivano dall'Illinois, esattamente da Chicago, due producer che ormai da tempo realizzano brani con sonorità, come avete sentito, a cavallo fra l'R&B e l'hip hop. E questo brano in modo particolare, ormai lo ascolto da diverse settimane, quando lo sento mi viene gioia, mi muovo proprio, i piedi vanno da soli. È vero, anche il video è molto colorato, molto fluo, è divertentissimo. Blended Babies, il brano era Make It Work, con la partecipazione di altri due protagonisti della scena hip hop contemporanea, californiani tutti e due, il rapper bianco nato nel 1985 Asher Roth, da tenere d'occhio perché è veramente forte. Devo dire che in questo momento resta Q-Tip, resta sempre il mio preferito insieme a Common, e poi anche Asher Roth dice la sua per essere un bianco, no? Ti piace? Mi piace molto, è la voce molto particolare e riconoscibile, perché poi lo sappiamo, devi trovare il tuo sound, e senz'altro il sound della voce di Anderson .Paak dice la sua. Ha un timbro bellissimo. Bellissimo, un ragazzo anche lui con una storia molto particolare, ha origini, non è proprio americano al 100%, no? No, ha origini coreane. Vedi, origini coreane, però con la famiglia che si trasferisce in California, cresce in California finché un giorno con la moglie e il piccolo figlio si trasferisce in una farm di quelle dove si coltiva medical marijuana. Entra in questa farm per lavorare come giardiniere. Come giardiniere, diciamo. Ecco. I compiti esattamente non li sappiamo. Fatto sta che un giorno viene licenziato e per un bel periodo della sua vita è costretto a vivere, come si dice, sotto i ponti. Quindi per la strada, finché la sua passione per la musica, come batterista, come rapper e come vocalist, lo porta a incontrare varie realtà underground lì a Los Angeles, e quindi i Blended Babies, con i quali realizza questo brano favoloso Make It Work con Anderson .Paak e Asher Roth. E ora un'altra novità, qui invece non stiamo parlando di una giovanissima ma di una veterana. Io ho avuto anche il piacere di vederla dal vivo diversi anni fa oramai, quando faceva parte del bellissimo organico creato da Roy Hargrove, ovvero The Rage Factor. Bellissimo organico, c'è un video anche ultimamente che ogni tanto vedo, lei elegantissima con questi capelli meravigliosi, con un groove pazzesco, una voce molto bella. Lei faceva parte anche di questo duo insieme a... Ma non abbiamo detto John chi è, Bailey. Ancora non l'ho detto. Non l'hai detto? Dillo te, dai. Si chiama René Neufville, mi piace tantissimo, musicista completa, faceva parte, come dicevi, di un duo chiamato Zané, con l'accento. Ah, bene, allora, René Neufville, bravissima pianista, tastierista, vocalista, arrangiatrice, infatti non a caso Roy Hargrove la portò con sé in tournée e anche in studio di registrazione per realizzare gli album degli RH Factor. Fatto sta che è anche una finalmente solista. Finalmente è tornata, questa è una sua composizione, si intitola Watching Me, anche questa una novità targata Soundcheck su Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Stiamo mantenendo la parola data, una puntata tutta di novità qui al Soundcheck di Radio 24. Naturalmente troverete nei nostri social network l'airplay che questa sera vi stiamo proponendo utilizzando Twitter, ma abbiamo anche delle pagine Facebook che, lo devo confessare, non gestisco personalmente. Una cosa che fai te? Sì, io con l'aiuto di Francesco Tromba. Invece il Tromba, eh? Sì, mi dà una mano. Io invece personalmente anche con un po' di ritardo mi dedico poi alla corrispondenza, quella che arriva. Il nostro indirizzo di posta elettronica sempre attivo, soundcheck@radio24.it, e avrete anche la possibilità di poter riascoltare le puntate in onda utilizzando il podcast che trovate nelle pagine del sito di Radio 24 dedicate al Soundcheck. Vi avevamo annunciato quindi una puntata di novità, e infatti questa band, anche questi sono giovanissimi, una band nuovissima, si chiama Columbia Knights, anche se poi arrivano da Filadelfia e la loro carriera l'hanno fatta a Washington DC. Sì, a Washington DC, dove questo duo formato da John Daisy e Eileen Price diventa un trio insieme a Jason Edwards. Posso essere sincero? Non li conoscevamo. Vabbè, ma questo si fa anche per imparare noi delle cose, no? Certo, perché la curiosità va alimentata. Io mi sono informata e definiscono questo album, che si chiama In All Things, un testamento per l'interconnessione che tutti condividiamo e il potere della musica di creare questi legami. Una grande pretesa, questi ragazzi. Grande pretesa. E poi hanno anche definito il loro sound, che naturalmente avrete notato, sa di tutti quegli elementi che vi raccontiamo qui al Soundcheck. Check, quindi c'è l'hip hop, c'è l'R&B, c'è una venatura jazz anche per la partecipazione di un artista che fra pochissimo vi presentiamo, e il tutto è stato definito dai Columbia Knights Soultronic. Beh, è un bel nuovo nome, devo dire. Non è la prima volta che lo sento. Quindi ed elettronica? Soultronic, esatto. Bello. Bene. E dunque, il brano che abbiamo ascoltato si intitolava Glide, con la partecipazione della vocalist Vaughan Octavia, e in questo album, come tu ci hai detto, si intitola In All Things, c'è anche un altro guest che è uno dei miei preferiti della nuova generazione, polistrumentista, vocalist, un sognatore che scrive la sua musica in formato ridotto, cioè le sue composizioni durano dal minuto e 30 secondi ai 2 minuti e 30 secondi al massimo. È radiofonico. No, non di più, molto radiofonico, ma anche molto originale, e quindi l'originalità poi a volte non ti permette di poter suonare la sua musica, perché quello che noi dobbiamo fare è divulgare un sound avvicinando la gente e non allontanandola. Scusate. E questo signore si chiama Dix Duke, polistrumentista, sassofonista e vocalist. Però hai detto che è un matto, perché? Beh, ti farò ascoltare le sue produzioni. Beh, passa da una cosa a un'altra con grandissima facilità, dalle sonorità più afro ipnotiche ed elettroniche a cose assolutamente contemporary jazz. Però proprio per questo mi piace molto. Guarda, non lo conoscevo, sono curiosissima di ascoltarlo. Eccolo qui allora, Dix Duke, che collabora con Columbia Knights. Il brano si intitola Now, il tutto pubblicato dalla Record Breaking Music qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Pronti per la seconda parte del Soundcheck di Radio 24, la prova del suono, il suono della musica, con la nostra Silvia Barba. Eccoci. E naturalmente Gegé Telesforo. Allora, puntata piena di novità, e vogliamo continuare così. Continuiamo allora con un artista che a me piace tantissimo, arriva dall'Australia, l'ho presentato diverse volte perché ha pubblicato due EP, tra l'altro realizzati nel suo home studio lì in Australia, da appassionato, che so, di Angelo, ma anche dei Fat Freddy's Drop, che è una band neozelandese di riferimento per tutto quel continente, si chiama Jordan Rakey, e da un po' di tempo Jordan Rakey vive dove? A Londra. Vive a Londra, dove collabora adesso con gli artisti del momento, uno tra tanti Tom Misch, che noi anche abbiamo programmato. Eh sì, il giovane chitarrista. Mi sa però che aspira anche a qualcosa di più, non dico Adele, sì, però... Sì. Aspira a suonare, a collaborare con James Blake, che è un riferimento importante per i musicisti contemporanei, appunto, con cui lui collabora. Beh, ma guarda il brano scritto da James Blake, Retrograde, lo ascolti dappertutto. È stato rifatto e viene tantissimo. Rifatto, sì, abbiamo già presentato diverse versioni di quella splendida composizione anche in versione strumentale, ma non è di James Blake che noi vogliamo parlarvi, bensì di Jordan Rakey, che sta per pubblicare il nuovo album, ce lo dovrebbe mandare proprio a momenti. Per ora abbiamo ricevuto soltanto il singolo, che si intitola The Light, e di questo brano una delle cose che mi piace, a parte la melodia e il tipico sound contemporaneo dell'R&B, che poi è un genere che sto notando ancora oggi nelle altre radio non viene suonato. Ma più di tanto io lo chiedo, cioè, vengono a te. vengono suonate le star, però i giovani artisti fanno fatica a farsi spazio. I giovani artisti e i musicisti completi, perché Jordan Rakey insieme a tutti quelli che abbiamo nominato sono musicisti che suonano veramente. Sì, e le tu cose non te che la fanno. Sei fatta la domanda perché? No, io me la sono fatta, ma la risposta la devi darmela tu. Io? Sì. Ma io credo semplicemente che credo sia una cosa di curiosità, no? Perché adesso nei grandi network ci sono delle figure, che dovrebbe essere quella del direttore artistico, che poi ha il suo team che gestisce la programmazione, quindi ci sono proprio degli addetti all'airplay che cercano quasi in maniera scientifica di programmare il brano giusto all'orario giusto per quel tipo di pubblico. Secondo me è tutte stupidaggini, ecco, che non servono a nulla, perché poi, come vedi, tutte le radio suonano le stesse cose, e allora l'airplay generale musicale della radio italiana è diventato veramente noioso. E come facciamo noi a scovare tutte le novità? Ascoltiamo. Ci dedichiamo. No, intanto ci dedichiamo perché c'è un lavoro da fare. Non aspetto che la casa discografica mi segnali qualcosa, non aspetto l'uscita del grande artista, ma quotidianamente lavoro, sono in contatto con i musicisti, con i produttori, un contatto diretto, e poi avendo internet il lavoro si semplifica perché certo ti devi dedicare, devi trovare il canale giusto, devi trovare il sentiero giusto da percorrere per andarti a procacciare le cose che ti piacciono. E tu le riproponi a noi incuriosendo e stimolando la nostra curiosità. E infatti, che ti credi? Solo che questo brano, per esempio, me l'ha mandato Jordan Reiche in persona. Direttamente. Eccolo qui, Jordan Reiche con The Light al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. No, mi diverte soltanto il nome della band. Guarda, quasi soltanto per il nome della band alla fine ho ascoltato gran parte del loro materiale. Li annuncio? Vai, annunciali, perché solo tu puoi farlo. Si chiamano Potato Head People, ovvero la gente con la testa di patata. Ecco. Ma che diavolo di nome, no? Troppo forte. No, questo mi devi spiegare veramente dove li hai scovati. Perché... Girando, Silvia, andando in giro. Sai, poi uno quando fa le ricerche deve seguire i link dei musicisti. Io infatti prima di andare a dormire faccio un razzolo per social network, e allora siccome attraverso Twitter, no, Facebook non lo uso tanto, no, ma Twitter mi aiuta molto perché seguo molti artisti e ci scambiamo informazioni. Allora se vedo che ne so, Jordan Reiche fa i complimenti a Potato Head People per il brano, io mi domando, ma chi perché sono? Jordan Reiche, certo, che a me piace, fa i complimenti a Potato Head People, quindi una cosa quasi da spia internazionale della musica. Vado ad ascoltare, mi piace, compro il brano e poi lo propongo in radio. Questo è il mio lavoro. E questo da quando c'è Twitter, prima che hai la... No, sono questo anni, no, che guarda, fai... Te lo dico, questo da quando ero ragazzino. Però quando non c'era Twitter? Oh, quando non c'era Twitter, quando c'era il vinile, no? Che non c'erano neanche le cassettine. E mi ricordo che mi iscrissi a un'organizzazione che si chiamava il Mondo Dimar. Esisteva il Mondo Dimar, guarda, io avevo 14-15 anni, il Mondo Dimar, che aveva sede a Rimini, aveva un grande magazzino e una bellissima distribuzione nazionale, ti inviava a casa un catalogo nel quale erano presenti tutte le pubblicazioni con i vari generi, e io seguivo già naturalmente il jazz, il soul e l'R&B, per cui mi ordinavo il vinile, e tu non puoi immaginare, lo facevo ogni 2-3 mesi perché non è che avevo tutti quei soldi allora, insomma prendevo la paghetta settimanale dei miei e la investivo nelle pubblicazioni in vinile che il Mondo Dimar poi mi spediva, e quindi quando arrivavano da un mese all'altro questi cartoni col vinile, tu puoi immaginare la gioia. La cosa è che allora intanto veniva pubblicata molto meno musica di oggi, ma poi c'era il vinile, e quindi tu ascoltavi il vinile 10-15 mila volte fino all'arrivo dei prossimi dischi, anche perché io vengo da una città molto funky, lo è sempre stata e ultimamente sta imponendo il suo sapore funky, che è Foggia, e allora c'erano 2 massimo 3 negozi di dischi specializzati soprattutto nel pop di allora, quindi in un negozio in particolare c'era un po' più di soul, nell'altro un po' più vinile di jazz, e naturalmente i 3-4 appassionati del genere della nostra città facevano quasi una gara podistica per arrivare prima a fregare l'unico vinile, che ne so, di Art Blakey e Jazz Messengers all'altro appassionato. Tu però stavi avanti rispetto agli altri, sono sicura. Questo non lo so, fatto sta che adesso mi ritrovo anche tutto questo vinile, che però non ho portato qui nel Groovemaster Studio, ma è ancora a casa di papà, e se lo tiene bello lo stretto ed è gelosissimo. Beh, ha un valore. Ha un valore senz'altro. Ma torniamo alla musica, vedi, tu mi fai divagare. No, poi sono curiosa di sapere. E fai bene. Allora, Potato Head People, questi ragazzi con la testa di patata, che non sono né americani, non sono inglesi, non sono australiani né neozelandesi, ma bensì canadesi. Eccoli, Vancouver. da Vancouver arrivano. Sì. Allora, Potato Head People, il brano era All The Way, producono la loro musica, tra l'altro anche l'etichetta, ma senti che bel nome, Buster Jazz Recordings, ok? E con Buster Jazz Recordings hanno realizzato diverse cose. Il brano che abbiamo ascoltato, credo, è stato realizzato per un progetto speciale. È o una produzione a parte. Nel luglio 2015, dopo l'uscita del loro album a febbraio, che si chiama Big Luxury, hanno pubblicato Big Luxury Instrumental Remix e B-Sides. Oh, e questo era All The Way. Invece Potato Head People incontrano una vocalist, e questa mi fa veramente impazzire. È il tuo nuovo amore? No, io proprio la vorrei conoscerla. Intanto il nome da fattucchiera, si chiama Amalia, no? Amalia con questa voce che canta con un senso ritmico travolgente, e poi anche le frasi le butta quasi, è no? Molto particolare, sembra un po' così, un po' sciatta, in realtà ha un timbro pazzesco. Ti dico la verità, io le voglio già bene. Potato Head People con Amalia, il brano è Love You. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. E non tutti sanno che il famoso producer americano, purtroppo scomparso, cioè quello che ha aperto i nuovi orizzonti al new soul, al contemporary R&B, il formidabile Jay Dilla, ha un fratello più giovane nato nell'86, che porta più o meno per assonanza lo stesso tipo di nickname, e infatti si chiama Illa J, che dà il titolo a questo album. Tra l'altro lui ha collaborato con i Potato Head People, ecco perché, questo è un link che ma secondo te come ho fatto a scoprire anche la musica di Illa J, che naturalmente si rifà al fratello? Tra l'altro la leggenda metropolitana racconta che dopo la scomparsa di Jay Dilla, Illa J abbia deciso di dedicarsi completamente alla musica, anche se in programma aveva un altro tipo di percorso: voleva diventare un campione di basketball. E poi ci ha ripensato, perché la produzione del fratello era talmente grande e vasta che ha ripescato dei lavori che aveva lasciato in sospeso. Infatti avrei notato che ogni tanto viene pubblicato qualcosa ancora di Jay Dilla, naturalmente in chiave contemporanea, rivisitato dai grandi artisti, però insomma, se pensi che con Jay Dilla sono nati D'Angelo, Common, Q-Tip e tutta la generazione di artisti strepitosi che noi proponiamo qui al Soundcheck, è un riferimento imprescindibile per incredibile, no? Successiva. Ma proprio il fatto di aver inventato questa nuova pulsazione ritmica, questo backbeat, no? Questa cosa di tra l'altro credo con una programmazione sbagliata fatta sul computer, cioè vedi, il fatto di aver aumentato o diminuito la percentuale di swing sui loop ha creato questo andazzo singhiozzante che poi adesso è diventato la base anche per i live di alcuni artisti. Cioè siamo partiti dalle batterie elettroniche programmate in quel modo, oggi invece i batteristi suonano come le batterie elettroniche. Senti, ma il fratello piccolo di Jay Dilla ha lo stesso appeal del fratello grande, secondo te? Intanto va bene, Illa J si mette in evidenza anche come vocalist, come rapper, cosa che Jay Dilla non faceva. Jay Dilla faceva il producer, ogni tanto si lasciava andare, ma insomma non era un vocalist, era più un musicista producer da studio. Illa J invece ha velleità proprio di diventare anche una star, credo pop, però è la stessa etichetta poi dei Potato Head People, Ma allora scusami, Silvia, parliamo? Sono una Buster Jazz Recordings, Illa J con la partecipazione di Ellie, il brano era Sunflower, e da Illa J passiamo a un'altra vocalist che non è inglese, non è americana, non è neozelandese, non è australiana, non è canadese, bensì di Amsterdam. Olandese, questa ragazza si chiama Rebecca Ling, e infatti dal cognome si può già immaginare che la fisionomia è un po' orientale. Sì, e infatti esatto, è così. Bella ragazza, eh? Bella ragazza. Capisco anche perché scegli le belle ragazze. No, non è vero. No, io la prima cosa che faccio è ascoltare la musica. Se mi piace, poi naturalmente vai a vedere. Da certo, curioso vado anche a verificare, e in questo caso sono stato fortunato perché Rebecca Ling è una bella Sgnappa. Molto, molto. Non è male. Allora, Rebecca Ling, il brano si intitola Dynamite, nuova pubblicazione per lei, produzione realizzata, come dicevamo, a Amsterdam, nei Red Bull Studios. Non so come sono questi studi, però dai filmati che si vedono in internet non sono niente male. Energetici, direi. Rebecca Ling, per la prima volta al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Abbiamo iniziato la puntata di questa sera con il sound incredibile di Kirk Franklin con il nuovo album, e chiudiamo invece con un altro sconosciuto, perlomeno per me, anche se a Londra è uno dei musicisti di riferimento per la nuova generazione, producer che ha non un nome tradizionale ma uno pseudonimo, ovvero Alpha Mist. E questo signore Alpha Mist, con un background musicale anche classico, sì, appassionato di jazz, propone, come sempre fanno gli artisti della nuova generazione, questo melting pot culturale contemporaneo. Ti sono piaciuto? Molto. Ti ringrazio. Sei perfetto. Grazie. Voglio dire una cosa su questo artista. Lui è un tipo particolare perché ha dei problemi con il dormire. Ah. Si definisce trouble sleeper. Ma perché tu hai dormito o non hai dormito con lui? No, non ancora. Però ti posso dire che nella sua produzione c'è un riferimento sempre al problema del dormire. Questo brano appena passato, appunto, si chiama come sottotitolo Pillows. Pillows, invece il titolo è Sunrise, e vede la partecipazione di Emma V, vocalist inglese, anche lei della nuova generazione, con la quale collabora spesso il signor Alpha Mist, che ultimamente ha avuto anche grande successo, credo, a Oslo, con un concerto sold out coinvolgendo tutta la combriccola di artisti Tom che Misch, presentiamo. Tom Misch, Jordan Rankin, ecco. E Barney Artist. C'è una foto bellissima su Twitter dove sono tutti questo ritratti. Vorrei fare, vorrei organizzare in Italia, prima di tutto devo trovare un investitore privato, né? Perché non è che uno può organizzare certo. Il festival come si faceva anni fa, aspetto i fondi dalle regioni dagli enti, no, degli investitori privati, avere un bel gruzzoletto, non una cosa importante, ma il gruzzolo giusto per organizzare un festival contemporaneo per dare esposizione a tutto questa meraviglia di sound che noi proponiamo qui al Soundcheck. E che non ha spazio nel nostro paese. Ma prima o poi, guarda, perché ci sono già dei festival che hanno capito che bisogna puntare su queste cose. Tipo il Locus Festival di Locorotondo, che a me piace, proprio l'organizzazione. Non ho ancora avuto la possibilità di frequentarlo, perché poi si fa d'estate, io d'estate vado invece in giro a suonare. Guarda, mi segnerò le date per la prossima edizione, ci voglio stare, anche perché è in Puglia e tu sai che il DNA non mente, c'è il richiamo della giungla, della foresta, si mangia bene, si beve benissimo, c'è un olio favoloso e c'è della grande musica a Locorotondo per il Locus Festival, ma poi ne parleremo più in là. Certamente. Allora, siamo in chiusura, mia cara Silvia, io non posso dimenticare di annunciare agli appassionati di jazz che la puntata di domani sera sarà molto interessante. Perché? Perché qualche settimana fa, insieme, tra l'altro c'era anche il nostro Francesco Tromba, abbiamo cenato con un musicista incredibile della nuova generazione jazz, che abbiamo già presentato al Soundcheck, che è il meraviglioso Christian Scott. Lo vorrei dire inventore di stretch music, perché il disco che ha realizzato ultimamente per Rope Dope Records è una vera invenzione, proprio nel concept generale, anche nella divulgazione, nella promozione. E naturalmente a cena ho tirato fuori il mio armamentario di mini alta tecnologia e ho registrato la nostra conversazione. Io c'ero. Quindi non una puntata vera con Christian Scott protagonista, ma da spia musicale 2.0 ho rimontato il tutto, quindi ascolteremo alcuni dei momenti, proprio le dichiarazioni di Christian Scott, stimolato dalla mia curiosità. Senti, io mi autoinvito, allora vengo anche domani. Dai, vieni. Allora, noi ci risentiamo domani alle 19.15 sempre qui su Radio 24 per il Soundcheck. Facciamo una cosa, allora, visto parlavamo prima di James Blake e di Retrograde, il brano che gli ha fatto vincere tanti premi, allora, siccome Alpha Mist ha realizzato la sua versione di Retrograde, dobbiamo mandarla per forza. Lei è Emma V, la vocalist. A tutti voi buona serata, buona musica, ci risentiamo domani sempre qui al Soundcheck. Grazie a Silvia Barba. Grazie a Giorgia Telesforo.